Il terzo anello ad alta voce. I Buddenbrock di Thomas Mann. Thomas Buddenbrock lasciò l'ufficio e salì lo scalone di corsa. All'ingresso della sala si trattenne mezzo minuto davanti allo specchio, si aggiustò la cravatta e aspirò per un istante il profumo d'acqua di colonia dal fazzoletto. Quantunque fosse sudato, era molto pallido, aveva le mani e i piedi freddi. I ricevimenti nell'ufficio l'avevano quasi ridotto all'estremo della resistenza. Respirò profondamente ed entrò per salutare, nella stanza piena di sole, il console Uneus, commerciante di legnami e 5 volte milionario, sua moglie e la loro figlia col marito, il senatore dottor Giseke. I signori erano rientrati insieme da Travemünde, dove passavano il mese di luglio, e con parecchie altre delle prime famiglie avevano interrotto la cura dei bagni soltanto per assistere al giubileo della casa Buddenbrock. Così si iniziò la giostra. La grande porta bianca, con sopra il rilievo degli amorini musicanti, non rimase quasi mai chiusa, lasciando vedere costantemente il vano delle scale illuminato dalla luce che scendeva dal lucernario e lo scalone stesso, sul quale gli ospiti salivano e scendevano senza posa. Siccome però il salone era spazioso e i gruppi si fermavano a conversare, quelli che arrivavano erano più numerosi di quelli che uscivano e presto la stanza divenne insufficiente e la cameriera fu esonerata dal compito di aprire e chiudere la porta, che rimase aperta perché alcuni gruppi di persone avevano invaso il corridoio. Un brusio, un rombare di discorsi, un insieme di voci maschili e femminili, e strette di mano, e inchini, e parole scherzose, e risate forti e libere che salgono tra le colonne dello scalone e riecheggiano dal soffitto, dalla grande lastra di cristallo del lucernario. Il senatore Buddenbrock riceve, ora in cima alla scala, ora sulla soglia del verone, gli auguri talvolta formali e mormorati con serietà, talvolta espressi con calore cordiale. Alle 12:15, quando il programma della banda civica volgeva verso la fine, avvenne un incidente che non toccò né interruppe in alcun modo la gaiezza dominante, ma, dato il carattere commerciale, costrinse il padrone di casa a lasciare gli ospiti alcuni minuti. Su per lo scalone, in una pausa della musica, salì, tutto confuso dalla presenza di tanti signori, il più giovane apprendista dell'ufficio, un omino piuttosto deforme che, rosso di vergogna, teneva la testa infossata tra le spalle più di quanto fosse necessario. Agitava esageratamente un braccio sottile e troppo lungo per darsi un'aria di noncuranza fiduciosa e portava nell'altra mano un foglio ripiegato, un telegramma. Salendo cercò con occhi irrequieti il principale e appena l'ebbe scorto si insinuò mormorando parole di scusa tra la folla degli ospiti che gli sbarrava il passaggio. Di fronte alla scala del secondo piano era l'apertura del montacarichi col quale si facevano salire le vivande dalla cucina. E lì, alla parete, era appoggiata una tavola dove di solito la domestica puliva l'argenteria. Il senatore si fermò là, volgendo le spalle all'apprendista gobbo, e aprì il dispaccio. I suoi occhi si spalancarono talmente che chiunque li avesse visti sarebbe balzato indietro atterrito. Con uno scatto convulso, egli aspirò l'aria così violentemente che si sentì la gola secca e dovette tossire. Poté dire soltanto «Sta bene», ma il frastuono delle voci dietro le sue spalle assorbì le sue parole. «Sta bene», ripeté, ma anche questa brevissima frase si spense in un soffio. Il senatore rimase fermo accanto alla tavola. Teneva le mani col telegramma spiegato, abbandonate davanti a sé, e mentre seguitava a respirare con le labbra dischiuse a fatica e rapidamente, muovendo il busto avanti e indietro, andava scuotendo la testa come inebetito e colpito da un accidente. «Quel po' di grandine, quel po' di grandine», ripeteva da insensato. Poi il suo respiro si fece più profondo e tranquillo. L'ondeggiare del corpo più lento, gli occhi socchiusi gli si velarono di un'espressione stanca e quasi affranta, ed egli si volse con la testa pesantemente abbandonata. Hanno se ne stava silenzioso, le mani incrociate sulle ginocchia, e come al solito sfregava la punta della lingua contro un molare, di modo che la bocca appariva un po' storta. Con tanto d'occhi immobili osservava la mamma e il signor Füll. Stava a sentire la loro musica e i loro colloqui, sicché dopo i primi passi sulle vie della vita, egli s'accorse che la musica era una cosa molto seria, importante e profonda. Aveva soltanto 7 anni quando incominciò a ripetere per conto suo sul pianoforte certe combinazioni di note che gli avevano fatto impressione. Sua madre lo guardava sorridendo, rettificava gli accordi cercati con muto zelo e gli spiegava perché proprio quella tal nota non doveva mancare affinché da un accordo ne risultasse un altro. E l'udito confermava al ragazzo le parole della mamma. Dopo averlo lasciato fare per qualche tempo, Gerda Budenbrock decise di fargli dare lezioni di pianoforte. «Senta, Füll, io vorrei ricorrere senz'altro al suo aiuto per Hanno. Sia buono. So benissimo che ci sono qui in città 2 o 3 persone, donne, credo, che danno lezioni, ma sono maestre di pianoforte, lei mi intende». Ora, non si tratta di esercitarsi su uno strumento, ma piuttosto di capire qualcosa di musica, non le pare? E di lei mi fido. Lei prende le cose sul serio. E vedrà che con lui troverà soddisfazione. Alle mani dei Budenbrock. I Budenbrock arrivano tutti a prendere le none e le decime, ma finora non ci hanno mai tenuto, concluse ridendo. E il signor Füll si dichiarò disposto ad assumersi l'insegnamento. Da quel giorno egli veniva dunque anche il lunedì nel pomeriggio per dedicarsi al piccolo Hanno, mentre Gerda rimaneva nella stanza di soggiorno. Egli non procedeva nel modo solito, poiché sentiva di dovere allo zelo muto e appassionato del ragazzo più che l'insegnamento di un po' di pianoforte. La gratitudine di Hanno per quel maestro, la sua dedizione a quella guida era senza pari. Mentre, nonostante tutte le lezioni private, egli se ne stava a scuola a cupo e senza speranza di capire, a rimuginare i quesiti d'aritmetica, al pianoforte capiva tutto ciò che Füll gli diceva e se l'appropriava come ci si può appropriare soltanto di quel che ci appartiene fin dall'inizio. Edmund Füll, con quella sua giubba bruna, gli pareva un grande angelo che ogni lunedì lo prendesse tra le sue braccia per rapirlo dalla miseria quotidiana in un regno sonoro di dolce e confortante severità. Il 15 aprile 1869, nel suo 8° compleanno, Hanno suonò insieme a sua madre, davanti alla famiglia adunata, una piccola fantasia composta da lui, un motivo semplice che aveva trovato e che, sembratogli singolare, aveva un po' elaborato. Hanno, pallido per l'agitazione, non aveva mangiato quasi nulla a tavola. Ora però la dedizione alla sua opera, che purtroppo doveva terminare dopo 2 soli minuti, era tale che gli aveva fatto dimenticare del tutto l'ambiente in cui si trovava. Quel piccolo brano melodico era piuttosto di natura armonica che ritmica, ed era molto strano il contrasto fra i mezzi musicali primitivi, fondamentali, infantili, e il modo importante, appassionato e quasi raffinato col quale quei mezzi erano accentuati e messi in valore. Con un movimento obliquo della testa, Hanno dava risalto a ogni passaggio e, seduto sull'orlo della sedia, cercava di conferire col pedale e con la sordina un valore sensibile a ogni nuovo accordo. L'effetto di quel brano musicale su Hanno non poteva certamente comunicarsi agli ascoltatori. La signora Permaneder, per esempio, non aveva capito un H di tutto quello sforzo. Aveva notato però il sorriso del ragazzino, i movimenti del busto, la beatitudine con cui egli aveva reclinato la cara testolina. E quella vista l'aveva commossa nel profondo della sua bontà e tenerezza. «Come suona questo figliuolo! Che bravo!» esclamò correndo verso di lui, quasi piangendo e stringendolo fra le braccia. «Gerda, Tom! Diventerà un Mozart, un Meyerbeer, un...» E, in mancanza di un terzo nome di altrettanta importanza, si limitò a coprir di baci il nipote che se ne stava lì, con le mani in grembo e con gli occhi assenti, stanco e spossato. In fondo al cuore, Thomas Budenbrock non era d'accordo col carattere e con lo sviluppo del piccolo Hanno. Non lasciava trapelare la preoccupazione con cui notava la freddezza che andava aumentando fra lui e il suo figlioletto, e a nessun costo voleva far capire che cercava di cattivarsi la simpatia del ragazzo. Durante il giorno aveva poco tempo per incontrarsi con Hanno, ma a tavola lo trattava con una cordialità amichevole che aveva una punta di durezza incoraggiante. «Olà, camerata!» diceva dandogli un paio di manate sulla nuca mentre sedeva a tavola di fronte a sua moglie. «Come andiamo? Che cosa abbiamo fatto oggi? Studiato? Suonato il pianoforte? Va bene, ma non troppo, altrimenti non avremo più voglia di studiare e a Pasqua saremo bocciati». Non un muscolo del viso tradiva la tensione con cui aspettava la risposta di Hanno. Nulla tradiva il dolore che aveva nel cuore quando il ragazzo dirigeva verso di lui soltanto uno sguardo timido degli occhi bruno dorati, senza raggiungere neanche il suo viso, e si curvava muto sopra il piatto. Sarebbe stato mostruoso crucciarsi per quell'imbarazzo infantile. Mentre erano insieme, per esempio, nelle pause, quando si cambiavano i piatti, egli sentiva il dovere di occuparsi del giovinetto, di sottoporlo a qualche esame, di stimolare il suo senso pratico. Quanti abitanti aveva la città? Quali strade portavano dal Trave verso la città alta? Come si chiamavano i magazzini di proprietà dell'azienda? Su, rispondere a tono e rapidamente. Hanno, invece, taceva. I suoi occhi si velavano, le labbra assumevano un'espressione di sconforto e quello che lo dominava era un doloroso rincrescimento per l'imprudenza con cui il babbo, il quale doveva pur sapere che quei tentativi fallivano sempre, aveva rovinato il pranzo a se stesso e a tutti gli altri. «Come stai, Anno?» gli domandava l'uno o l'altro dei parenti. «Vai a scuola volentieri?» «No», rispondeva Hanno tranquillamente, con quella sincerità che di fronte a cose più serie considera superfluo mentire in cose tanto futili. «No, eppure bisogna imparare, a scrivere, a far di conto, a leggere, e così via», concludeva lui. «No, non ci andava volentieri in quella scuola, quell'ex convento col chiostro e con le aule dalle volte gotiche». In complesso, i rapporti del ragazzo con i suoi piccoli compagni erano lontani ed esteriori. Soltanto a uno di loro, e fin dai primi giorni di scuola, lo stringeva un legame più saldo. Era costui, un ragazzo di nobile famiglia, ma molto trascurato nel vestire, un certo conte Möln, che, con nome frisone, si chiamava Kai. Era un giovinetto della statura di Hanno, ma non portava come questi l'abito dei marinai danesi, bensì un misero vestito di colore indefinibile al quale mancava qualche bottone e che mostrava una gran toppa sul fondo dei calzoni. Già prima che incominciasse la scuola, Hanno Budenbrock aveva visto di sfuggita il piccolo conte due o tre volte durante le passeggiate con Ida fuori le mura a nord della città. Lo aveva poi ritrovato nell'aula scolastica e, da principio, doveva aver provato soggezione per l'aspetto selvaggio del contino. Ma ben presto il suo istinto sicuro l'aveva fatto penetrare oltre la scorza negletta, gli aveva fatto notare la fronte candida, le labbra sottili, gli occhi celesti a mandorla che guardavano con una specie di iroso stupore. E tosto aveva provato una grande simpatia per quel compagno, preferendolo a tutti gli altri. Un giorno Kai aveva chiesto che Hanno, invece di andare sui bastioni, andasse a fare una passeggiata fino alla proprietà di suo padre per vedere i porcellini d'India appena nati. E la signorina Jungmann aveva infine ceduto alle preghiere. Erano dunque andati alla casa del conte, avevano visto il letamaio, le verdure, i cani, le galline e i porcellini d'India e infine erano entrati anche nella casa. In una stanza bassa del pian terreno, il conte Eberhard, vera immagine d'una solitudine orgogliosa, stava leggendo presso una tavola rustica e pesante e aveva chiesto bruscamente che cosa volessero. Non era stato possibile indurre Ida Jungmann a ripetere quella visita. Anzi, aveva insistito perché, se i due ragazzi volevano stare insieme, Kai venisse piuttosto a far visita ad Hanno, e in questo modo il contino era entrato per la prima volta, con ammirazione sincera, ma senza alcuna soggezione, nella magnifica casa paterna dell'amico. Thank you. Il senatore Budenbrock, che di quando in quando passando dalla stanza dei bambini vedeva i due amici insieme, non aveva niente da obiettare contro quell'amicizia, perché era facile rilevare che ciascuno dei ragazzi traeva vantaggio dall'altro. Hanno esercitava un influsso calmante, moderava e addirittura nobilitava Kai, il quale lo amava teneramente. E se Hanno a sua volta prendeva un po' di vivacità e di fierezza dal piccolo conte, non si poteva che esserne contenti. Il senatore, infatti, non si nascondeva che la continua tutela femminile, sotto la quale il ragazzo cresceva, non era la più adatta per stimolare e sviluppare in lui qualità virili. Davanti agli occhi gli stava un'immagine sulla quale bramava di modellare il proprio figlio. L'immagine del bisnonno di Hanno, come egli stesso l'aveva conosciuto da ragazzo. Testa limpida, gioviale, semplice, forte e piena di buon umore. Non poteva diventare così anche Johan? Era forse impossibile? Perché? Si fosse almeno potuto sopprimere e relegare la musica che estraniava il ragazzo dalla vita pratica, non favoriva certo la sua salute e d'altro canto assorbiva le sue energie spirituali. Quel suo fare sognante non era talvolta assai vicino all'irresponsabilità? Un pomeriggio, tre quarti d'ora prima del pranzo fissato per le 4, Hanno era sceso, solo, al primo piano. Per un po' si era esercitato al pianoforte e ora se ne stava ozioso nella stanza di soggiorno. Semicoricato sulla sedia a sdraio, giocherellava col nodo della marinara che aveva sul petto e, girando intorno gli occhi senza cercar nulla, scorse ad un tratto sul grazioso tavolino di noce della mamma una cartella di cuoio aperta. La cartella coi documenti di famiglia. Puntò il gomito sul cuscino e, posando il mento sulla mano, osservò per un poco quelle carte da lontano. Senza dubbio il suo babbo se n'era occupato dopo colazione e le aveva lasciate lì per consultarle ancora. Una era infilata nella cartella, altri fogli sciolti erano tenuti fissi da una riga di metallo, il grosso fascicolo dal taglio dorato e dai fogli di diverse qualità era aperto. Hanno si lasciò scivolare adagio dalla sedia e si avvicinò al tavolino. Il fascicolo era aperto al punto in cui v'era tracciato, con le scritture di parecchi antenati e in fondo con quella del babbo, tutto l'albero genealogico dei Budenbrock, con le rubriche e le date messe in evidenza. Piegando un ginocchio sulla sedia, i morbidi capelli ondulati sul palmo della mano, Hanno osservò un po' il manoscritto con la serietà debolmente critica e un po' sprezzante d'una perfetta indifferenza, e con la mano libera prese la penna della mamma mezza d'oro e mezza di ebano. I suoi sguardi passarono sopra tutti quei nomi maschili e femminili incolonnati e affiancati, in parte scritti con ghirigori all'antica e larghi svolazzi, con inchiostro stinto e giallastro o nero carico, sul quale c'erano ancora tracce di polverino dorato. Lesse anche, alla fine, il proprio nome tracciato con la scrittura minuta e frettolosa di suo padre sotto quello dei genitori. Justus Johan Caspar, nato il 15 aprile 1861. E ciò gli fece piacere. Poi si rizzò, prese con gesti lenti la riga e la penna, pose la riga sotto il suo nome e fece scorrere ancora una volta lo sguardo su tutto quel groviglio genealogico. Dopodiché, con aria tranquilla e con accuratezza spensierata, macchinalmente e trasognato, con la penna d'oro tracciò due belle righe parallele attraverso tutto il foglio, tenendo la riga di sopra un po' più grossa dell'altra, così come doveva fare su ogni pagina del suo quaderno di aritmetica. Poi esaminò l'opera sua reclinando un po' la testa e si allontanò. Dopo il pranzo, il senatore lo chiamò e corrugando le sopracciglia lo redarguì aspramente. «Che roba è questa? Chi l'ha fatto? Sei stato tu?» Hanno dovette riflettere un momento chiedendosi se l'aveva fatto lui e disse timidamente «Sì». «Che ti viene in mente? Che cosa ti prende? Rispondi? Perché questa monelleria?» gridava il senatore percotendo piano la guancia di Hanno col fascicolo arrotolato.